ci conferma. Perché? Non è che mi capito qualche... Capito? E tu al buono chiedere informazioni, va? Che sia di nuovo gialla. Vabbè, comunque, tra 15 giorni chi capita? Quindi a metà febbraio. 15 giorni di chiusura, non ho fatto per il bar, solo da sport. Beh, mia figlia a casa, 15 al bar, te l'avrei detto. Assolutamente, non ci riusciamo a vedere, anche perché lei è aggiornata con la Confcommercio, ho capito. Tengo una giornata, quindi è così. Vabbè, pazienza, no, siamo ancora in zona arancione, non ti preoccupare. Riprendi, Manuel, che devo fare una telefonata, un secondo. Un attimo, arrivo subito. Anche tu. Mi rimango in ascolto, quando ci siete parlo. Aspetta un secondo, devo fare una telefonata, Tony, un minuto. Non sei da solo. Mi rovini. Buonasera, Ria. Buonasera, mi stavo facendo una pennichella. Ero un po' stanco, stamattina mi sono alzato presto, quindi un po' stanchetto ero. Mi sono fatto una piccola pennichella. Hai fatto bene già, tanto questo tempo di grazia dove te lo offendeva. Quindi io sono arrivato sabato sera ed è venuto Stefano a prendersi all'aeroporto a Olbia e mi ha fatto vedere il bar. Tu non ci credi, gente ammassata un mese senza mascherina, un casino. E per Stefano è dormito, ecco perché metto la ragione fuori. Non c'è nessun controllo, non gliela frutti nulla. Io ho già tornato che si deruba la zona, era tornato senza mascherina stamattina. E gli ho detto cosa? Ho detto, ma allora non hai capito, ce l'ho in mano, cosa ce l'ha a fare in mano? Te la devi mettere addosso, cosa è in mano? Ero in macchina, a me non me la fuiti nuda, tu nell'ascensore, io scendo dall'ascensore, tu nell'ascensore senza mascherina non ci devi entrare. Dopo c'era un'altra del condominio, gli ha detto cosa pure. Io quando ero ancora a Milano all'aeroporto c'era questo con la mascherina abbassata e prima era passato il mio finanziere, a uno ha portato la mascherina e l'ho fatto, scusi, la mascherina, grazie. Ma ha preso, fuori la maso. La gente non veniva fuori nulla, capito? E poi abbiamo assistito in treno che questo extracomunitario di colore non ha fatto un biglietto. Serviva una settimana, ha detto guarda, deve fregare che io sono operato, a chi sono operato per non accusare un cutuioso. E quelli che fanno sempre così, non fanno biglietto, poi se dici cosa, si mettono anche con le mani. Deve fregare che io stavo male, ero appena operato, lasciare dai, e il treno ha tardato a partire di nuovo, vabbè. Però c'è per fare. Io l'ho visto soltanto su Striscia Notizia queste cose. Ma ho visto dal vivo che è così. Se c'è pauso io te lo pido a barba del buzzo e fuori voi. Si è ritratto Claudio. No, è ancora la bassa. Manuele si è spostato, se l'ha regalato un uovo, buio. Quindi Gianni. Ernia. Riprenditela. Milo bacia con queste operazioni e a Valeria prima. Davvero? No, mamma mia, ma ci vecchi ha rimesso a nucchia. Ha sbagliato il biglietto. Vabbè, meglio sento. Sì, ho dormito bene stasera, un pisolino, guarda, la meraviglia quando mi alzo. Non al 100%, diciamo al 75%, vai. Piano piano, vabbè, se fai il conto mi ero operato il giorno 19, quindi non è passato molto tempo, 8 giorni. Ma infatti, lasciare il tempo. E poi magari io per dire, quando cambia il tempo un po' me ne rendo conto, come c'è il sole, come se non avessi nulla. Come cambia il tempo un po' il muscolo mi fa male. Che ballacchi, eccomi qua, scusate, devo fare una telefonata. Vedi che non hai ragione a Tonino, che è entrato Gianni. Vabbè, prima non c'era, giustamente. Sì, ma già, tu hai avuto un'operazione tutta non differente dalla mia. La mia ha avuto un'eria che si era calcificata nell'osso e ciccia. Però tu hai avuto, è ovvio che senti la differenza quando cambia il tempo, quello al 100%. Tutto qua, riprendi la classe. Ma voi quel reme avrete, Gianni, quel reme c'hai? No, zero. Santiago 3. Zero, completamente io. Non esserci quel Remener nel 140 proprio, zero. Manco ci muovo lo Schmitter. Bello, bello, bello. Io ce l'ho 7 con 3, ma non di 2F, ma sono basso proprio. No, io zero completamente, sia in uno che nell'altro. Ecco, sto controllando queste cose, capito? Non sa mai che, ma sono contentissimo, è perfetta, perfetta, perfetta. A posto. Riprendi già. Era qua, si è spostato un attimino, lui c'è come un fruscio di correre, quindi sette con tre, vabbè, comunque, non da fastidio. Ma Ruele, sì, ma vai da Ghiccio Gambu. E io con quest'altero ho risolto, cioè il correre ho risolto, perché non ce n'è mai correre con questa antenna, è difficile. Ma io anche con la mia non è che... la mia è fastidio di tanto. Poi, se mi dà fastidio un po' di correre, rumore... ma sono c'è altro con lo squelci, boh, basta, capito? Infatti. Oh, l'unica volta che ho sentito QRM con questa antenna è il giorno che c'era quello di Oristano, cazzo. Caro Esivi, silenzio, c'è il QRM. Che ci vuoi fare? 7:20, 7. Sì, perché alle 7 meno, no, 6:20, alle 7 meno 20 devo andare alla parallela a prendere roba. Manco mi cambio perché non la giocare, metto la scarpa e basta, perché il ciabatte non ci posso andare. Tanto di notte lo vedesci un po' con giubbotto e via. Anda bene, ma non è cicomone, sì, sì, e ci faccio la bassa. Ma guidando se? No, sono ancora a casa. Devo uscire alla parallela, che devo prendere roba, che l'avevo prestato. E ho detto non mi cambio neanche già, tempo brutto, poi siamo dirutti, cosa andiamo a fare, poi a casa c'è mamma d'ora, manco con la fatica, no? E poi, anzi mi tolgo anche l'acci, mi tolgo, ho fatto un video, anche ci danno lì a lega, quanto mi dà fastidio, niente, mi sa che domani con quale scappa e quella strap, lo faccio prima. Strip strap. Stick e troc, avanti qua. Ia, ia, va bene, va bene. C'è problema, dai. Beh, vai dalla nebbia che c'è ponendo, va. Perché domani dovrebbe fare bella giornata, c'è pioggia fine, fine, fine, nebbia qua, domani dovrebbe essere bella giornata. Speriamo. Io sono andato a fare un po' di commissione, ma stava piovendo, stava più vigilando. E io, vabbè, domani mattina me lo vorrei con Gigi, tra l'altro devo darli con gli alimentatori. Con gli alimentatori, così li prepara, poi io li chiudo, ho già comprato tutto il materiale per chiuderli, fatto bene, interruttore, tutte cose, e lo uso per il sommergibile. Manco al telefono mi risponde, io l'ho sempre detto prima di partire, che devo dirgli di farli anche le mie alle orecchie. Ah, c'è il caro bizzino, grazie, boh. Grazie al caro Bizzino, sei impegnato, cosa ne sai tu cosa sta facendo? Ma a parte quello che è impegnato, ma quante volte cado un giornale, un manzano, mi chiamano così, ma chiamatemi anche. Sì, tu, in capito di un bisogno, Marco, bubu, a me vai se va lì nelle Arecci. Lo chiama la mattina e risponde la sera, quanto è Goldri, riprendi già, riprendi. Oh, via, è ritardato. È un po' ritardato, ehi vabbè, un po' dice che in magna, un po' era collegato, un po' è così, un po' colà, non sentiva, alto, alto volume, poi un trombone, un telefono che ti va di squilla, e allora, vuole forte la soleria. Ma no, io mi stavo tremando dalla stanchezza, mi sono alzato ben presto, perché devo fare molte commissioni, mi sono alzato presto. Tutti, era ora, e sono anche io. Mia Gianni che è entrato lì. Ehi Gianni, buonasera. Uè Incu, e cosa stavi facendo? No, adesso sono anche io, le devo dire delle cose, ma se ne andate adesso. Cava, cava, e bene, bene, come va? Bene, bene, sto camminando, dai, da Pascoli ho fatto tutto il mercato. Anche io ci devo andare al mercato, vorrei comprarmi il pesce. Non troppo mai il giorno, mi pare che domani se fa bella giornata, parcheggio la macchina un po' prima e poi vado a chiesa, faccio un po' a Pascoli, un po' caroseto. E poi io dove sta Manuele? Faccio sempre troppo. Ma ti ho detto che non deve strapazzare di fare motostrada, ancora è presto. Cosa sta lì a fare strada? Piano piano, tu non è che stavo affaticando il cazzo. Cerca di non sbagliare di nuovo il biglietto, anziché andare alla Pilotti, poi andiamo più torra. Che studia? Ah, chi mi sta sbagliando? Hai visto il video? Aveva sbagliato il biglietto. Claudio, oui. Te l'avevo mandato quel video? Sì, me l'hai mandato. Continuate voi un minuto, dai, che io devo fare una cosa urgentissima. Un minuto, arrivo subito. D'accordo, siamo qua. E poi vela. E vabbè, io a poco vado senza sforzare troppo. Un po' un giorno, un po' l'altro, senza fare troppa di strage, no, la butti fra. No, allora ti spiego, siccome devo fare dei documenti al CAF di accesso, però la macchina l'ho lasciata lì dove c'è Sisa, l'ho parcheggiata lì. E da lì sono andata a prima, ho fatto una passeggiata a piedi in via Sorso. Dopo la via Sorso ho fatto una passeggiata verso tutto il ponte nuovo, ma non è che sia lontano, No, infatti. No, pensavo da andare veloce io che è andata a piedi. Avanti. Ciao Claudio, compagnia di Gianni Doppio Room, Manuele Cinco e Claudio in cura di momentaneo. Ciao Claudio, ben sentito. È veloce. Ciao Claudio, ben sentito, dai, mi ha fatto piacere risentirti, vai Artù. E comunque sì, tutto bene, perfetto, è stato per la vita, piano piano stiamo andando meglio, dai, non è che siamo guariti al 100%, ma abbiamo ancora il punto. E va bene così, l'importante è andare avanti, quindi salutami anche a Gianni, e dire tutto qui da parte nostra. Cosa volevo dire? Ah sì, poi Manuele sta anche meglio, perché tra l'altro non so Gianni se tu hai visto quel video, c'aveva delle calze speciali per non venire i troppi, ma erano talmente particolari che sembrava uno di questo doveva parlare di cantare. I trombi no, non l'ho visto, non me l'ha mandato a me. No, però quando tu entrai c'era già le calzette, se fosse stare la polizia, so. Aspetta la mano, va così, ci voglio risparmiare. Cappagappa. Ciao Claudio, ti ho arrugginito, buonasera, avanti. Sì. A tuo padre al 100%. Oh Gianni, te lo sto mandando, non ridere. E tu sei controllato le calze del cantante. Che malo che sia, aspetta che vado a guardare perché mi è arrivata. Che carino. Ehi, a conto, dai. Mi ferrappa. Ho 32, altri 5 minuti che bisogna spostare, devo andare dalla mia parolera. Può prendere qualcosa. Avanti Manuele. Ah, Manuele è già sul posto. Claudio, ripeto. No, no, sto usando vecchi normale. L'ho staccato pure il poco fa, quello lì. Dimmi di gol! Adesso come mi ascolti? Abbasso la voce, è arrivato un messaggio. Bene, bene, vai. Siamo ritornati, devo col microfono super, sì, ok. Andrà bene. Manuele, il microfono quando ti stufi te lo prenoto. Cosa hai detto? Che quando ti stufi lo prenoto col microfono. A te piace già? Sì, va bene per il gara, si va molto bene. Lo so. Spaviero, sei entrato? No. Riprendi chiodo. Ho anche abbassato perché sennò mi... ecco, adesso sono proprio al massimo. Ehi, ehi, ma anche tu ci stai uscendo benissimo, Claudio. C'è una bella radio, bella pimpante. Che radio stai usando? che mi sento come arrivo dalle altre parti. Dovremmo occupare qualche luogo qua e io andare a un'altra stazione a sentirmi proprio chiaro chiaro come c'è sto microfono. Comunque, mi state dando conferma voi e mi va bene così. Avanti già. Sì, aspetta che sto facendo una cosa, non più l'altra. Ok, avanti chiodo. faccio sentire che perché non hai già sentito questo microfono? Questo è il Galaxy Atomeco con Tana più 3. E cosa cambia? Non cambia assolutamente niente. Sono uguali, precisi, identici. Non cambia assolutamente nulla. Avanti Tonino. Forse al telefono Tonino. Perché non l'avevi già sentita Claudio? Questo è il Tana più 3. Cosa? Te l'avevo detto che c'era il Tana più 3 col Galaxy. Avanti Gianni, riprendi, dai, che sto facendo cosa io? Sì, ero al telefono, scusate. Questo è il Galaxy col Tana più 3. Com'è? Si dedica. E allora, sempre a si dedica. Bella popolazione. Quindi non vuole essere più o meno che la mia, così. Certo, ma infatti è così anche la tua, le stavo dicendo a Claudio che non cambia niente. Io adesso in questi, vabbè, oggi sto usando il 140 perché è arrivato alle 3 e lo stavo provando perché sabato vengono a prendercelo, ho capito. Che l'ho mandato al centro assistenza a fare alcune tarature, alcune cosettine che c'erano da fare. Però io di solito mi uso sempre con questo, col baracchino qua, col Galaxy Saturn Echo. L'ho preso, c'era un mese fa. Questo era quello di Danilo, me l'ho preso da lui. Super Siderik perché è fatto in una maniera diversa, praticamente al piantone di un colore e la cassa dove c'è la capsula cromata, basta, non è top né tip né tap, sono uguali, precisi e identici, uguali. E quel nero? Cazzo, mi tengo un po' di guglionati, cazzo, boh, sono uguali, Turner e Turner, non c'è niente a fare. I Turner originali sono il Turner più 3, quello grigio, e il Turner più 3 Super Siderik, ok? Il Turner più 3B è un prototipo, va bene? È un prototipo che ha qualcosa di differenza sia nel circuito che nella capsula, ma quello che hai tu, quello grigio, se tu lo attacchi esce uguale a quello mio e a quello di Tonino, non cambia niente. Precisa identica, se Turner è Turner, Claudio, i Turner sono così, questa è la modulazione del Turner. Se io ti metto l'MB più 5, te ne accorgi che sto usando il più 5, perché è meno acuta. Il Turner c'ha la tonalità molto alta, molto acuta, capito? E poi col Galaxy si abbina molto bene. Io ne ho due di Turner, c'ho il Turner più 3B, quello nero, che funziona perfettamente, ok? Simile a questo, ma questo che è il Turner più 3 vero e proprio funziona meglio, ha una caratteristica più alta di modulazione, ma sono uguali, non cambia niente. Solo la voce cambia, sia la tua Claudio che quella di Tonino, da quella di Claudio, perché sì, sicuramente il microfono va benissimo, però per uscire come sta dicendo lui ci vuole la vostra voce, o quella tua o quella di Tonino. Infatti Giulio, glielo sto dicendo, si tratta sempre di voce, ok? perché se io ti faccio sentire il Tanner più 3B con questo tipo di Tanner, supersideri che tu non distingui niente. Se io ti attacco un MB più 5 non distingui niente, perché la mia modulazione è questa, ok? Se invece lo usi tu, allora io me ne accorgo se stai usando un microfono o l'altro. Tutto qua, perché io e Tonino abbiamo una modulazione molto acuta e molto grossa. Ciao Giulio, buonasera. Avanti Tonino, questo è il Tanner più 3 uguale al tuo, con la stessa radio che stai usando tu. Ciao Giulio, ben ritrovato. Ok, io mi devo sentire, devo dare una parola, prendere roba, devo dare 20, sto già me lo dici, faccio la scappata veloce. E tra un quarto d'ora, 20 minuti sono di nuovo qua. Se mi trovo, rientro. Lo proseguo, ultimate, avanti in doppio. Vedi, ti rapporto in macchina, così ti accompagniamo. Comunque io ho notato una cosa, che tu hai più bassi, invece Claudio c'ha più acuti. Anche la vostra voce cambia, diciamo. Prego. Registrato. Sì, quella di Claudio è più intelligibile, sicuramente. Buonasera, Massimiliano, avanti. Sì, il capo, dai, ciao, buonasera Giulio, sono appena entrato, non so chi c'è in ruota, ho sentito Gianni e poi non so ancora chi c'è in ruota. Capo, dai, facciamo, ci vediamo, hai sentito, e cordialità anche a te. Capo, ciao Gianni, Giulio, chi c'è ancora? Claudio di Muros, Claudio di Sassari, Tonino che è appena andato via, e forse ci sarà l'ascolto anche Emanuele, non lo so, io sono l'ascolto un po'. Non sto parlando, intanto faccio qualche piccola entrata così, ma solo perché ho l'abbassamento di voce e non voglio faticare troppo. Dipende, Massimiliano. Cappa, positivo, dai. No, per far capire, Gianni, questa per farti capire la radio, con questa sto modulando, ok? Vabbè, riprendo io allora per salutare a Massimiliano. Dai, ciao Massimiliano, buonasera, ben ascoltato. No, io volevo solo far sentire il Galaxy a Claudio con il Tanner più 3 e nel frattempo sono passato nuovamente col K perché lo devo tenere sotto controllo. Va bene, che il tecnico vuole sapere se è tutto a posto. Avanti, a chi tocca, dai. Sì, ciao Claudio, ti saluto e saluto anche a Chiodo, dai, visto che è ruota. Dai, riprendi Chiodo. Sì, ok, vabbè, io sto andando con 3 watt, il resto sono i suoi modulati. No, volevo capire se c'era Gianni a fargli ascoltare questa radio, da solo questo e basta. Ehi, già ci sono, ti ho salutato, buonasera. Ehi, ma poi ti ho rilanciato a dirti, vedi già, questa è la radio, quella che ti stavo parlando, mi capito? Com'era te lì il segnale? Sono a minimo, 9.30. Addirittura, a minimo. Aspetta, ma c'è il bip? No. Ok, adesso ci dovrebbe essere anche il bip, guarda. Sì, fa Così dovrebbero essere con i watt tutto al massimo. Chiodo, da te com'è così? Isuga, da 5 a 9.15, allucinante, gatto. Guarda a me, adesso come mi ascolti, te l'ho ruggito, io sono con 9 watt. E questo è il gas, Massimiliano. E già vanno bene tutti. E già è bello, sì, già è bello. E il microfono che fine ha fatto? Il microfono, io questa l'ho comprata così, con quella lì. Ma tu c'hai il Cobra, no? Quello, diciamo, che c'ha la retina sopra, giusto? Esatto. Quello è uguale a questo, va bene anche qua, quello lì, capito? KK, va bene, avanti Claudio. Ciao chi, Spagliero? Ehi, Spagliero, vai, riprendi. Ehi, va bene. Le radio vanno tutte bene, quando funzionano bene, vanno tutte bene. Certamente che sì. Avanti Giulio, riprendi. Non è che posso parlare molto, ma se meglio ho un abbassamento di voce, non voglio peggiorare la situazione. Comunque intanto già la faccio una piccola entrata, così. Va bene, dai. Comunque ho Claudio di Muros. prova a trovarti anche uno Sadelta Master Eco Plus, che probabilmente va bene anche quello per la tua timbrica. Io ce l'ho, l'avevo parato per la 31 ed è uscita che era una meraviglia. L'ho messo da parte e adesso non so cosa gli sia successo, ma dopo 3 anni, 4 anni che ce l'avrò, non mi funziona, mi si era spento il LED, non so la cosa, forse qualche filo della batteria, non lo so, vabbè comunque. Quindi un po', se trovi quello, costa pochissimo e funziona alla grande. Mi sembra che ce l'ha anche Gianni dopo Roma, quello. Confermi Gianni. E è questo che sto usando adesso, questo qua è il Saletta Master Plus, o chiodaro girito. Non è quello, non sto parlando di quello, sempre Sadelta, però quell'altro, quello grigio che ha il gambo che si abbassa, tutto il gambo del microfono è tipo cerniera, si abbassa e arriva piatto sulla base, arriva, sto parlando di quello, quello lì è Sadelta Plus e basta, quello là invece è Sadelta Master Echo Plus. È diverso, sono due tipi di microfoni diversi, o Claudio, ti posso garantire che vanno molto ma molto bene. Va bene, dai, riprendi Massimiliano, dai, io devo correggere perché, ripeto, non voglio peggiorare la situazione della voce, dai, riprendete, dopo casomai ritorno per i saluti, avanti Massimiliano. Massimiliano deve essere impegnato. Beh, questo qui è il Master Echo Plus, quello che sta dicendo Giulio. Come mi ascolti di radio, chiodaro girito? Utilizzare Sassari. Troppo forte la radio, non l'ho sentito nessuno. Claudio, ci sei? Ma perché, che differenza hai notato tra la mia modulazione e quella di Tonino col Turner Galaxy Gianni? Nessuna. È che io ho la voce diversa dalla sua, come ti ha spiegato Giulio, capito? È tutto un problema di voce. Chiolo. Benissimo, Massimiliano, non c'è problema, ottima, ottima veramente. Allora, se ti ha confermato Giulio che è ottima, Massimiliano, lasciala uscire, va bene. Quello lì invece, vedi, quello che c'hai tu è un Turner più 3B, giusto, quello nero? Sì, questo è il Turner più 3B, quello nero, però è originale sempre. Sì, ma infatti stavo spiegando a Claudio quali sono le differenze, no? Sono uguali, capito? Sono tutti uguali, Turner. Poi, come ti ha detto Gianni, puoi incappare in qualcuno che te lo vende però non ti lascia la capsula originale. Ecco lì che tu vai ad usarlo, dici, ma come mai Claudio sta uscendo meglio di me e io non esco come lui? Perché tu non stai usando la capsula originale. Io ce li ho tutte e due originali, le capsule originali Turner, ok, marcata Turner, quindi non si può sbagliare, quelle devono essere. Vai, doppio rum, ci sei? C'è il Portogallo che stava chiamando. Attento Portogallo, se ascolti l'Italia. Portogallo, sarà Porto Scuso. Portogallo è la poc'anzi, vabbè, adesso vuol dire calata la propagazione. C'era uno che ha chiamato dal Portogallo Italia. Va bene, dai, avanti Gianni. Gianni, se non rispondi al telefono, sì, sono 7:10 al telefono, dai. Gianni, lasciamolo un attimino in stand by, già entra lui. Sicuramente è con la fidanzata al telefono. Avanti Claudio Di Muros. Benissimo Claudio, forse si è sentato. Io ti ascolto benissimo Claudio, non c'è problema, guarda, a differenza di prima che tante volte io mi sono lamentato che non riuscivo ad ascoltarti, e appunto adesso ho visto e considerato che da un po' di tempo a questa parte mi arrivi benissimo. Il segnale è intorno ai 7 più o meno, magari sarai attaccato, non ha importanza, però riesco ad ascoltarti molto bene, a differenza di prima che non riuscivo proprio ad ascoltarti. Infatti più di una volta mi ero lamentato, tu ti ricorderai. Avanti ancora Claudio. certo, bisogna sempre migliorare, Claudio. Sì, no, perché a me, in un certo senso, mi dava fastidio, perché tu a me mi sentivi, ma io a te non ti sentivo. Ma è possibile, se io mi faccio ascoltare a te, tu allo stesso modo mi devi ascoltare, cioè ti devi far ascoltare. Per cui mi dava fastidio, perché quando si faceva come se io, che poi parlavi tu, c'era un silenzio di tomba, sentivo solo QRM e basta, non c'era radio, non c'era niente. Per cui adesso va bene, no? Non sarà questo grandissimo segnale, ma non mi importa il mio segnale, mi importa che ti senta e basta. Quello che mi importa, come ho sempre detto. Per cui non è che io lo dicevo così per ripicca, non ti voglio ascoltare. No, anzi, a me mi fa piacere ascoltare tutti, anche Santiago 2 per dire, no? È interessante che uno riesca a farsi ascoltare. Adesso mi ha spiegato qual è il motivo, ma io lo immaginavo che era solo questione di antenna, era senz'altro, dunque, e tu adesso hai risolto e va bene così. Sono contento per te, perché ripeto, da un bel po' di tempo a questa parte riesco ad ascoltarti tranquillamente, senza nessun problema. Per cui sono contento, dai, sono contento. Tutto lì, avanti Massimiliano. Così, appunto, no, ma adesso io sono contento che tu sia riuscito a sistemare la situazione, così almeno non ho problema nell'ascoltarti, sperando naturalmente che, a meno che non arriva Santiago molto di QRM molto alto, allora il discorso è diverso, come alle volte può magari essere una giornata di pioggia intensa e i segnali di QRM può essere anche 7, 8 o anche 9 alle volte, dipende dalle giornate. No, perché a me mi meravigliava, ma è possibile, ragazzi, io ho un'antenna che è abbastanza silenziosa, a differenza della Mantova Turbo che prima QRM ne aveva tanta. A tutti ti sentivano, arrivavo lì nella parte alta di Sassari, zona Claudio, ad esempio, 9.10, 9.15, e qui non arrivavo, ma mi dava fastidio, la verità mi dava fastidio, infatti mi sono lamentato più volte, ma non perché per il picco o perché io non ti volevo ascoltare. No, anzi, tutt'altro, mi lamentavo proprio perché non ti ascoltavo, perché volevo ascoltarti. Ecco, adesso hai sistemato la situazione e sono contentissimo. Io sono contentissimo, no, non c'è problema, adesso ti ascolto discretamente. Bene, bene, facciamo girare, c'è Gianni che ha il telefono, mi ha detto, vediamo se Claudio riprende. Claudio? Sì, riprendo a Colgarci, dai, che... voglio modulare col baracchino, va bene, il capo l'ho provato, ottimo, è rientrato oggi dal centro assistenza, quindi è pronto per la vendita. Ok, avanti Massimiliano, riprendi. Massimiliano, sei completamente fuori, non si è capito niente. Massimiliano, non sei la M, sei completamente fuori. Ok, no, scusate, ho sbagliato io. mi sono spostato io di coso, va. Ok, dai. Vai, riprendi qua. K, sì sì, adesso sei perfetto. Molto forte la modulazione qua, è perfetta Marcella, bellissima. Molto molto forte. Minchia, c'è una nebbia, non si vedono manco gli alberi, eh. Sicuramente domani farà bella giornata. Ok, caro Claudio, no, io modulo sempre quasi con questo, vai, no. Ormai K sono passato in secondo ordine, ero lì che stavo. Lo stavo facendo un po' scaldare per fare la regolazione a caldo. Ho visto si è attaccato alla ventola, l'ho regolato. Ho regolato il vato a caldo così, poi si stabilizza una volta che è calda, quella si stabilizza lì e non si muove più, capito? Così è pronta per la. Per dare al nuovo proprietario. Avanti, riprendi Claudio. Scusate un attimo, mi assento per mettere il pellet, se no si spegne la stufa, riprendete. Eia. Ascoltati subito quel messaggio, non domani, adesso ascoltatelo. Ok, mi ascolti. Claudio. Via. Non mi senti? Cosa? Non mi ascolti o no? Aspetta. Aspetta. Eia, dimmi che stavo ascoltando un messaggio, dimmi. Eia, volevo capire come mi ascolti con questa radio. Aspetta, abbasso un pochino qua. Come mi ascolti? Questo è il 2009. È radio normale. Attacca a vedere. Aspetta, ora non sono seguito, sì. Allora. Così, guarda, c'è bip, cambio. Chiudi tutto, è meglio il 5000 di modulazione, è più forte. Cos'è il 5000? Cos'è quello che c'ho io? Ah, quello è coso, è il 4005. Se è rientrato Claudio Muros, attento Muros, è andato ad ascoltare il messaggio. Io bene sto andando con questa regolazione, Galaxy. Sì, qua, perfetto. Aspetta, passo tutto. Ok. Ora. Ok, va bene comunque come radio per modulare così, sa? Puoi anche aumentare appena il Mickey Gay. Devo passare per l'ascolto da dentro, se no mi innesco, ha capito? Ah, peccato. No, il 4005 non lo fa. No, io glielo tengo a metà e quando chiudo l'eco, il colt, no, non succede niente, la modulazione è perfetta. Aspetta, metto le cuffie e poi provo a aumentare, aspetta. Mettiti le cuffie a vedere. Attento, Muro Gio. Io sono rientrato, però vi saluto, dai, ci sentiamo. Sono andato giù a riempire la stufa di pelle, che se non si spegneva. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao, qua, a domani. Con questo abbassamento di voce non è che ne ho molta voce. Ci sentiamo le prossime, ciao Massimiliano, se mi stai ascoltando. C'è anche la partita Atalanta-Lazio in questo momento, 3-2 sta vincendo l'Atalanta. Ciao qua, ascolto il finale e poi chiudo, dai, ok, ciao. Sì, ascolta, sì, la stavo guardando, ma no. Non mi metteci più di tanto, mi guardo la mia dopo. Ho detto, oh, che potenza stai usando? Sto notando picchi negativi. Anche poco fa nel K-Pat li stavo notando, anche qua nel Galaxy ce li hai, leggeri ma ce li hai. Non so, sempre la stessa cosa, non lo tocco mai, sempre la stessa cosa. Che cosa mi sta dando? Boh. Saranno 15 watt, saranno all'incirca. Te avevo detto che aveva problemi di carica, no? No, sono più di 15 watt. Sì, 9.20 pieno, di solito arrivi 9.15, quindi sono più di 15 watt quelli. Anche perché c'hai un leggero picco negativo, capito? Vabbè, dai, lasciala stare così a futtidini. Ciao, buona serata, buon tutto, riservati e già ci ascoltiamo alle prossime. Ok qua, aspetta che provo a girare il cardio a vedere cosa succede. Ecco, e adesso com'è qua? Vedi che adesso c'è picchi positivi, perché c'è qualche cosettina da vedere con la radio. Ma te l'ho detto, da tempo, no? Che ha quel problema lì, ha quel problema.